prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Io ho fatto una decina d'anni tra elementari, medie e liceo a scuola dai Salesiani e credo di aver imparato molto. Ai Salesiani sono molto legato perché la mia era una famiglia operaia, una famiglia povera. Allora quelli della mia classe sociale erano destinati alle scuole tecniche se riuscivano ad andare a scuola dopo le medie per trovare un posto in Fiat, che era un'ottima soluzione per i giovani torinesi di allora. E invece i Salesiani pensavano che io potessi fare qualcosa di più frequentando il liceo e poi l'università, ma i miei genitori non avevano quanto serviva per sostenere le spese relative. Allora i Salesiani, per farla breve, mi hanno tenuto al liceo, ginnasio liceo, per 5 anni a metà retta, grosso favore dal punto di vista economico che hanno fatto alla mia famiglia e quindi a me, del quale sono ancora oggi riconoscente. L'ospite di oggi, molti lo avranno già riconosciuto, è il giudice Giancarlo Caselli, in libreria con il volume autobiografico Nient'altro che la verità, una storia che inizia in una famiglia normale, capace di trasmettere a un giovane Caselli la passione per lo studio, il rigore e l'onestà. Questa onestà barra legalità è poi stata così la stella polare della mia vita professionale e quindi ho cominciato a sentirne parlare fin da allora. Poi gli anni dell'università, mi laureo in storia del diritto italiano e provo all'inizio a fare l'assistente di storia del diritto italiano, soltanto che, scherzo anche nel libro ma poi mica tanto, la concorrenza fra aspiranti a questa o quell'altra cattedra era ed è forte, anche se affettuosa, e allora a un certo punto mi sono stufato, essendo la mia tesi intitolata Il concubinato nella storia del diritto italiano, di essere presentato come una specie di porcaccione scientifico che studiava le donne facili invece di studiare argomenti un po' più seri. E allora ecco, ho affrontato il concorso in magistratura e l'ho vinto con sullo sfondo quella che sarà poi mia moglie, perché è difficile raccontarlo tutto in poche parole. Sta di fatto che si doveva fare una scelta ad un certo punto, se consegnare tutte le prove scritte col rischio che magari qualcuno fosse andata male, che non si potesse poi andare avanti sostenendo altre prove d'esame, oppure non consegnare. Io ho telefonato alla vigilia dell'ultima prova scritta a mia moglie, quella che non era ancora mia moglie, e mia moglie è molto, professoressa di matematica, molto pragmatica, mi risponde testualmente dicendo: guarda, se farai il magistrato bene, se non farai il magistrato farai qualcos'altro, tu consegni e non se ne parla. E io ho ubbidito, non era ancora mia moglie, ma ho fatto bene ad ubbidire, perché poi le cose sono andate nel migliore dei modi. Ripeto, la mia è una famiglia non ricca, anzi decisamente modesta, economicamente parlando. I miei genitori sono riconoscenti in una maniera infinita, perché hanno tirato la cinghia, ecco, si sono sacrificati nel senso letterale del termine perché io potessi crescere, potessi realizzare quello che anche loro speravano per me. E però ecco, mi dispiaceva pesare esclusivamente sulle loro spalle, quindi a un certo punto decido di lavorare. Il mio lavoro è piazzista, si chiamava produttore di macchine per scrivere, lo posso dire, della Olivetti, sì, macchine sì. Per scrivere, calcolatrici. E vendevo anche molto bene, ecco, me la cavavo, soltanto che sono di quelli che non riescono a fare due cose bene insieme, o studiare o lavorare, ho un'ammirazione sconfinata per gli studenti lavoratori, io non sono riuscito ad esserlo. Dopo aver raggranellato quel poco tanto, abbastanza, che mi serviva per non sentirmi troppo in colpa con i miei genitori, ho deciso di concentrarmi sull'università e ho finito. Poi il servizio militare, le nozze con Laura, alla vigilia dell'ingresso in magistratura, il lavoro in magistratura. Anche qui, se vogliamo, mia moglie ha un grosso ruolo, ormai mia moglie, perché le cose funzionano in questo modo: viene bandito un concorso per entrare in magistratura, supponiamo di solito a 200 posti, i 200 vincitori di concorso un bel giorno vengono convocati a Roma e viene sottoposto loro un elenco di 200 sedi vacanti che il CSM vuole coprire appunto con i vincitori di concorso. Per cui il primo, quello che ha vinto il concorso, ha 200 opzioni, possibilità di scegliere questa o quell'altra sede. L'ultimo si tiene l'ultima sede che è rimasta, che nessuno ha preso. Io ero piazzato molto bene, ecco, quindi potevo scegliere praticamente quel che volevo e volevo restare in Piemonte, e in Piemonte avevo ampie possibilità. E allora dico a mia moglie: guarda Laura, io preferirei all'inizio non Torino, ma una sede di provincia, perché così ho ancora tempo per studiare, crescere, perfezionarmi e poi il grande centro dopo. E Laura mi risponde testualmente con queste parole: no Giancarlo, io non sono d'accordo, perché se andiamo in un piccolo centro di provincia, lì sotto i riflettori ci sono il parroco, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista, il medico condotto, l'insegnante, Laura era appunto insegnante, e il pretore. Io non voglio vivere sotto i riflettori, mi piace una vita un po' più anonima. E allora abbiamo scelto, ho scelto Torino, soltanto che l'anonimato ce lo siamo scordati dopo un po' di tempo. Almeno questo mia moglie l'ha sbagliato, non me lo può rimproverare. E a Torino, negli anni in cui lei ha iniziato a fare il magistrato, tra l'altro, insomma, non si respirava un'aria così pacifica, perché come racconta lei nel libro furono anni pesanti in cui cominciò ad affermarsi anche tutto il fenomeno del terrorismo rosso, insomma. Esatto, a Torino comincio alla fine del 67, inizio 68, 2 anni di tirocinio e poi divento giudice istruttore. Dopo qualche anno, 73-74, comincio ad avere processi sulle Brigate Rosse, in particolare il processo riguardante il sequestro di un magistrato genovese, Mario Sossi, che è quello che ha proiettato sul panorama nazionale le Brigate Rosse come gruppo non più operante soltanto in questa o quell'altra città, ma come soggetto politico criminale, naturalmente antagonista, contrapposto a quello istituzionale, a quello statale. E divento per 10 anni, prima da solo, poi insieme ad altri colleghi, i primi pool di giudici istruttori, che saranno poi famosi con Falcone e Borsellino, si creano qui a Torino con le inchieste sul versante dell'antiterrorismo. Divento prima il e poi uno dei giudici istruttori sul versante delle Brigate Rosse di prima linea. Un'esperienza molto forte, coinvolgente, che dura 10 anni, terminata la quale vado al Consiglio Superiore della Magistratura, poi torno a Torino come presidente della Corte d'Assise, e qui siamo nel 92, quando vengono uccisi a Palermo prima Falcone e poi Borsellino. E io mi sono chiesto, naturalmente coinvolgendo in una drammatica riflessione la mia famiglia, gli amici, che cosa potevo fare, e ho pensato che fosse giusto mettermi a disposizione, mettermi in gioco, fare una domanda per essere trasferito da Torino a Palermo alla guida di quella procura che era stata di Falcone e Borsellino. Il Consiglio Superiore della Magistratura mi, virgolette, accontenta, e io vado a lavorare a Palermo, dove ci sto quasi 7 anni. Gli anni di Palermo saranno forti, estremamente formativi per Caselli, ne parliamo però tra pochissimo, nella seconda parte. La prima volta. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. Io vivo con la scorta dal 1974 e poco o tanto la scorta finisce per coinvolgere anche i familiari, e questo è indubbiamente un ricordo, una valutazione, un bilancio non allegro. E dunque, in 15 secondi, Giancarlo Caselli racconta in qualche modo un'intera vita al servizio dello Stato, al nostro servizio, e la storia appena sfiorata di una famiglia che apparentemente in seconda fila partecipa a questa battaglia per la legalità. Vado a lavorare a Palermo, dove ci sto quasi 7 anni, è stata una sorta di volontariato alla resistenza del nostro paese di fronte al pericolo che lo stragismo mafioso corleonese si trasformasse in qualcosa di assolutamente diverso, un narcostato, uno stato mafioso, un baratro in cui rischiavamo di precipitare. Invece tutti quanti insieme, con fatica, facendo squadra anche in questo caso, siamo riusciti a venirne fuori. La mafia oggi è ancora un problema, ma se possiamo parlarne è perché allora abbiamo resistito. Queste alleanze, queste complicità, queste coperture di cui le varie mafie riescono a godere con pezzi, non generalizziamo, pezzi, ma pezzi, certo, consistenti, certo, della politica, della finanza, dell'economia, del mondo della cultura, dell'informazione, delle stesse istituzioni, è il DNA della mafia. Bene conoscere questi problemi, le dimensioni e le difficoltà, perché così si possono fronteggiare meglio e risolvere. E sono problemi che si possono risolvere. Ma l'obiettivo ultimo delle mafie, ecco ciò che alcuni studiosi vengono delineando, è addirittura creare situazioni di monopolio in questo o quell'altro settore. E allora c'è anche un altro problema che si chiama money dirting e che ci riporta un po' a Mafia Capitale per, sì, certi profili. Money dirting è un fenomeno speculare rispetto al riciclaggio. Riciclaggio vuol dire denaro sporco che deve essere ripulito perché il mafioso se lo possa godere. Money dirting è denaro non di origine criminale, ma denaro opaco, irregolare, anche illegale, per esempio proveniente dall'evasione fiscale o dalla corruzione, ma non criminale mafioso, o denaro addirittura pulito che viene affidato per essere investito a circuiti borderline caratterizzati anche dalla presenza di soggetti mafiosi. I quali soggetti mafiosi hanno un vantaggio, come dire, relazionale da questo money dirting, perché entrano in contatto con colletti bianchi, vengono ammessi in salotti buoni e con questi soggetti, colletti bianchi, in questi salotti buoni possono fare degli affari sempre più lucrosi. Lei da torinese, quando iniziò ad occuparsi a Palermo proprio anche di questi argomenti, cioè, se lo ricorda le prime volte che venne a contatto proprio col pensiero mafioso in senso anche lato, insomma, si ricorda un momento, un evento che la colpì proprio perché era molto distante dal suo modo di pensare, di essere, che in qualche modo le ricordava quello che per tutti noi è il concetto di mafia? Guardi, paradossalmente ciò che ricordo di più è qualche cosa che addirittura può sovrapporsi a un'esperienza ai tempi del terrorismo. Versante antiterrorismo. Tocca a me, insieme ad altri colleghi, interrogare Patrizio Peci, capo colonna della Brigata Rossa di Torino, il primo grande pentito che poi determina una slavina di pentiti, il crollo verticale e di Brigate Rosse e di Prima Linea. Le Brigate Rosse cercano di frenare questa slavina e di punire Patrizio Peci sequestrando suo fratello Roberto Peci. Un processo farsa, processo del popolo, come lo chiamavano loro, poi una bestiale esecuzione in una discarica per estorcere delle dichiarazioni fasulle, per punirlo soprattutto perché aveva una colpa, quella di essere fratello, grande pentito di Brigate Rosse che loro dovevano in qualche modo contrastare. Vado a Palermo, la procura arresta un mafioso di Altofonte di nome Santino Di Matteo, chiede di parlarmi e quando si siede davanti al procuratore di Palermo, siamo a Roma, e invece mi dice: io parlerò della mia militanza in Cosa Nostra, ma adesso voglio cominciare parlando d'altro. E mi dice che vuole parlare di Capaci. E Capaci, Falcone, la moglie Francesca Morrillo, gli uomini che erano con loro, che con loro purtroppo sono morti. E per un 4-5 ore, finiamo verso le 6 del mattino, io registro fedelmente sue dichiarazioni sulla strage di Capaci, sull'esecuzione materiale, perché lui mi dice: voglio parlare di Capaci perché io c'ero. Lui era lì a Capaci, è uno degli esecutori materiali, e racconta per filo e per segno cosa è successo, cosa non è successo, chi c'era, chi non c'era, cosa ha fatto Tizio, cosa non ha fatto Cagliari a Seguitano. Tutto quello che si poteva desiderare di sapere sull'attacco più feroce al cuore dello Stato portato da Cosa Nostra, ecco, questo verbale ce lo consegna, me lo consegna. E però anche qui, momento di grande soddisfazione personale, avvelenato, devastato, distrutto, dopo poche settimane, perché il figlioletto tredicenne di Santino Di Matteo, Giuseppe Di Matteo, viene sequestrato da mafiosi di Cosa Nostra, tenuto prigioniero per 18 mesi durante i quali a livello di maltrattamenti e di tortura gli fanno di tutto, finché lo uccidono strozzandolo a mani nude mentre la televisione trasmette la notizia della condanna all'ergastolo di uno dei suoi sequestratori, e infine questo è lo stile mafioso, questo è lo stile dei cosiddetti uomini d'onore, il suo cadavere è sciolto nel lacino perché i parenti non lo possono mai più ritrovare, tutto questo soltanto perché figlio di suo padre che aveva rivelato il segreto dei segreti di Cosa Nostra, la strage di Capaci. Ecco, due momenti, nonostante le differenze abissali che ci sono tra terrorismo e mafia, quasi sovrapponibili, a dimostrare che quando si tratta di difendere la propria esistenza contro un pericolo micidiale, mortale come il pentimento, per resistere, per fronteggiare questa minaccia micidiale, non esitano a ricorrere in un caso come nell'altro agli stessi comportamenti di rappresaglia nazista, di vera e propria rappresaglia nazista. 50 anni di magistratura con esperienze obiettivamente piuttosto forti, piuttosto intense, non possono avere momenti alti e bassi, luci ed ombre, cose piccole, medie o grandi, ripensando alle quali ti viene fatto di dire qui potevo fare qualcosa di più diverso, magari anche meglio. Il mestiere di magistrato io l'ho sempre vissuto come un mestiere nel quale devi prospettarti tutte le possibilità, la gamma completa delle opzioni possibili, per poter scegliere al meglio, ecco. Ma una volta scelto, basta, fatta la scelta, non bisogna più tornare su queste scelte, perché altrimenti non si finirebbe mai. La prima volta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Radio 24 trattino la prima volta, la nostra pagina Facebook. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. La prima volta, a cura di Cristina Carpinelli.